Runtime Radio presenta. Ehi, presenta, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di mastica. Gente, stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No. Signora! E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma che? Calla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soch Media Edition. Ma Soch, ma che è stata stronzata? Sochi chi? OGM Soch Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi do di basta con tutto sto casino. Ma la gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti ancora una volta qui lunedì sera ad OGM Soch Media Edition. Con noi c'è Carmine Puccio Console, Francesco Lobby Frontali di Muro. E poi purtroppo Simone, io e Marco Gualdi. Sì, va bene. E anche Walter Sbano siamo assenti, non ci siamo. Infatti, io ho detto, se ci stanno quei due, noi dai che ci stanno. Esatto, adesso faranno tutto loro. No, infatti, fa una cosa per cazzi nostri. Ci ho pensato, lasciamo una birra. Stanno a bere una birra. Ciao. Che poi, tra l'altro, raccontiamo un background scene. Raccontiamo un back scene. Non so se si dice così, penso no, però. Com'è nata l'idea di OGM? Ve lo ricordate? Lo sapete che io ho ancora il file registrato? Io mi ricordo, cioè, che chiacchierare in bar. Che sicuramente stava. Esatto, l'idea. Bravo. Di coinvolgere. Una volta la condividiamo con il pubblico questa cosa, perché magari a qualcuno può far piacere. Noi. Ce l'hai la musica quella del lutto? Certo. Perché noi puntavamo al cavallo sbagliato. Noi abbiamo sempre detto, ma vedrai che Diego, se glielo diciamo, già, sarà contento. Andiamo a fare il programma da lui in birreria. Noi svoltiamo le birre, ma questa sarebbe stata una cosa secondaria. E soprattutto una cosa che. Come si dice? And again. Sì, vabbè, però insomma, uno non è che va lì per bere. Però avremmo fatto questa bella trasmissione. Poi sei lì, che fai? No? Esatto, con tanti ospiti nel pub. Che poi, gente, secondo me, è uno dei motivi per cui ha divorziato poi Diego. Esatto. Tutti i soldi, ma pure dal noi ha divorziato. Esatto. Nel senso, dalla vita, penso. No, in realtà, torniamo seri. In realtà, noi a Diego gliel'abbiamo detto. Lui ha detto: sì, figo, famo. E mentre diceva di la faccia, si sentiva tunt. Esatto. Aspetta che torno. Ma secondo me non ha manco inchiavato, ha solo tirato giù la sala. Ma in realtà, vabbè, le cose sono andate un po' diversamente. Nel senso che, insomma, se n'è dovuto andare, mettiamola così. Dici? Beh, lo hanno sfrattato. Ah sì? Eh sì. Io pensavo che... No, non pagavo l'affitto da un po'. Beh, sono cose che... Però tu ti assumi le tue responsabilità. Ricordiamo che è un fatto dei Covid. Cioè, c'è stato un periodo veramente brutto. Sì, questo è vero. È vero pure che lui il lavoro un po' lo trascurava nell'ultimo periodo. Cioè, nel senso, lui da un pub, insomma... Questo perché già si sentiva una stella della radiofonia. Sì. E soprattutto, sì, della culinaria. Esatto. Dei culinari. Però, ecco, secondo me il momento più bello del Blue Pub è quando noi andavamo lì con l'iMac. Ma vi ricordate che bucio di culo? Cioè, ma oggi a ripensarci, no? E che cazzo ci vuole? Bravo. Esatto, ma che caso, belle puntate, il mixer, i microfoni, l'iMac, cioè, boh. però pesa le Mac. Però, ma, però mangiava sbavo, e quello è stato il motivo per cui lui ha chiuso lo seno di quella. Ha visto la i libri contabili, a un certo punto ha detto, ha fatto no, ma secondo me è la moglie che gli ha detto che è, insomma, no, basta, me ne vado. Esatto, esatto. Vabbè, ma secondo me quello poi è successo a prescindere. Vabbè, ma basta parlare degli assenti. No, no, ma infatti, però poi lo dico sempre anche a Diego, ogni tanto gli mando il messaggio dicendo che se hai ancora i file registrati di quelle puntate, perché purtroppo è tra le tante cose che sono andate perdute, perse nel passaggio, come lacrime nella pioggia, insomma, e vabbè. Comunque volevo dire, prima di iniziare, insomma, nel vivo di questa trasmissione che è pregna, pregna proprio di argomenti. Mamma mia. Non puoi. Dato che sì, abbiamo annunciato, però diciamo che fino a che non era tanto ufficiale, non è che ne abbiamo tanto parlato. Marco, vogliamo dire che finalmente è stata pubblicata la vostra trasmissione, tu e di Olivia, ho visto cose, però, sono addirittura due puntate. L'abbiamo detto la settimana scorsa. Sì, però. Sì, però non ci crede nessuno, quindi diciamo. Cioè, non me lo ricordo, capito? Cioè. Sì, la seconda puntata, quindi sì. Beh, la seconda puntata. Però facciamo finta che non l'abbiamo due puntate, detto. Una su Avatar e l'altra sulla Avatar, prima. Avatar, che è così. Ci guida il capitano Avatar. Vedi, questi si chiamano Trigger. E chi so, chi è il capitano Avatar? Io non lo conosco. Comunque. Comunque era Avatar, però serviva per la metrica. Ok. Che funzionava, funzionava. Che è proprio il cognome originale. E poi la seconda sul primo episodio. Sul primo episodio di Robocop. No, di no, The Last of Us. E poi venerdì uscirà la nuova puntata. Perché ricordiamo, esce ogni venerdì alle 6. E il venerdì viene anche trasmessa praticamente alle 21 su Runtime Radio. La terza puntata, possiamo anche dirlo. Possiamo dirlo. Non è un segreto commerciale che ci invidiano. È basata su. Basata, si discorrerà. Eppure pensa che su due puntate c'hai già 22 abbonati. Porco mondo. Ma abbonati da caccia di soldi, nel senso. No, ma abbonati nel senso se sono iscritti al feed. Iscritti. Incredibile. Allora, noi non abbiamo un per collegare il mio computer al mixer in questo momento, vero? Guarda, ce l'abbiamo. Ma se me lo dicevi prima era meglio. No, perché visto che tu volevi sapere, allora guarda, faccio come gli antichi. Fai come gli antichi, bravo. A meno che il tuo computer non ha il Bluetooth. Bello. Se mi mandavi il link lo usavamo in maniera più artigiana. Cosa. Tu lo sai che c'era, salutiamolo, capitano Avatar. No, c'era un tu lo sai, Marco, perché tu ogni tanto quando facevi viaggi nei primi tempi che noi facevamo podcast con noi in macchina, ogni tanto ti sentivi tutti i podcast che noi si sentivamo, di cui diciamo, con tutto rispetto, tre quarti erano una merda, no? Cioè, nel senso, compresi quelli che facevamo noi. No, noi abbiamo alzato l'articella su questo. L'unica cosa, forse i contenuti, no, però insomma, la qualità era. Esatto, c'era Rushcast. La ricordi? Tecnica, la tecnica. Te lo ricordi Rushcast? Lo saluto perché so che lui ogni tanto ci ascolta ancora dopo tanti anni. Però lui che faceva? Lui praticamente faceva la trasmissione musicale come facevano tanti. Prendeva il microfono, parlava, adesso vi faccio ascoltare la canzone di Tizio e Caio, senti un po', e metteva il microfono vicino a casa. Un po' quello che ha fatto Sbano adesso, e quindi mi ha riportato miei... Vabbè, ma noi l'abbiamo fatto per giuocare, diciamo. Esatto, no, lui era il modo di fare. D'altronde, ragazzi, la gente si architettava. Comunque stavo dicendo, guarda, la terza puntata. Negli anni 80 si faceva televisione con questi mezzi qua, quindi figurati come che sia, cioè, un podcast. Inquadravano una televisione per far vedere un'altra televisione, tipo. Esatto. Prego, la terza puntata. Dicendo, la terza puntata parlerà di The Bad Guy, questa bellissima produzione Amazon, che è uscita già da un po' di tempo, e facciamo delle considerazioni. Che hai visto solo tu, tra l'altro, non è vero, io l'ho visto di sicuro. Milioni di persone. Milioni di delle sue diverse identità, alter ego, sì, tutte le sue personalità hanno visto. Tra l'altro, proprio l'altro giorno su YouTube stavo vedendo, dove parliamo di social network, la storia di una tizia che c'ha tipo 2500 personalità diverse. E che queste 2500 personalità diverse, che sono state, adesso saranno 2500, saranno, però insomma sono un boato delle persone, l'hanno permesso di sopravvivere a comunque maltrattamenti e via dicendo. La cosa figa di questa storia che cos'è? Che questa qua a un certo punto ha fatto pace con se stessa, è riuscita grazie alle sue personalità a raccontarsi le cose come sono andate, perché sennò lei non si ricordava, perché lei quando subiva le violenze, prego, no, le violenze che alcune delle sue personalità subivano da altre delle sue personalità, praticamente si prendeva schiaffi da sola. Può essere pure. No, ma lei... ci sono io, perché qui non. Okay, sì, io sì. Ti sento benissimo. Bene, bene. Che hai toccato? No, la cuffia, la cuffia. Ho toccato la cuffia. No, no, ho toccato la cuffia per sentirmi io. Non ti preoccupare, mi sono toccato. Mentre c'è un gatto che ci spia dallo stipite della porta, è terribile. Anche in una posta da morto, cioè un gatto inquietante, diciamo. Ok, no, stavo dicendo che questa qua praticamente è stata violentata dal padre quando era bambina. Cioè, la storia pure è abbastanza drammatica. Brutta, certo. Però praticamente che succedeva? Lei già lì ha iniziato a sviluppare queste tante personalità, che poi sono maschi, sono femmine, non genere, perché praticamente lei, quando subiva violenza, la subiva tramite una delle tante personalità. Così, no? Si bruciava un cannoncino. No, no, queste continuavano a sopravvivere, però lei, diciamo, rimaneva più integra, no, dal punto di vista morale. Praticamente quando lei è cresciuta ha trovato il coraggio di denunciare questa cosa del padre, che intanto viveva da un'altra parte. Però giustamente la prima difficoltà che lei ha trovato è il fatto che a testimoniare di queste violenze dovevano essere le altre personalità, e chiaramente questa cosa... Devo dire una cattiveria, perché... No, no, non lo dire, no, non lo dire cattiveria, dai, questa è una storia... No, lo so, però vi volevo dire chi è il padre di questa... No, al balordo. Non è lui. Pensavo più a Kevin Spacey, guarda, mi stai considerato. No, vabbè, chiaramente. No, comunque, no, era più al balordo, secondo me, che comunque è sempre tra noi. E praticamente poi dopo lei comunque è riuscita a convincere sia la polizia che il tribunale a portare avanti questa cosa. Alla fine, in qualche maniera, che non so bene come, perché... Poi il processo ha dovuto utilizzare tutta una serie di tecniche, psicologi, periti e via dicendo. Ipnosi regressiva, tutte non lo so, cose. No, io credo più che il fatto che lei sia stata certificata, il fatto che, cioè, lei non era matta. No, credo. No, è chiaro, cioè, credo, cioè, quella era la cosa che doveva essere certificata, perché chiaramente tu vai dalla polizia, gli dici, guarda, è così, eccola. Adesso faccio parlare con Giorgio. Esatto, perché, bravo, sono Giorgio, è normale che quelli non è che l'abbiano subito al volo. Insomma, sul serio, insomma. Esatto. Così. Invece poi alla fine il padre è stato condannato, insomma. Beh, meno male, insomma, almeno giustizia fu fatta, perché poi al di là delle battute, insomma. No, no, veramente, cioè, ma voi immaginate, comunque, nonostante che lei dice di aver ritrovato comunque la soddisfazione di essere riuscita a portare a termine questo compito, e per lei era importante, resta sempre il fatto che tu sei una persona... Però è incredibile la psiche umana lesa, per autoprotezione, no? Cosa è in grado di fare, no? Se ci pensi... Però questa purtroppo dovrà comunque vive così. Sì. Costa 2500 cristi. Poi uomini, donne, cioè non è indistinto. Cioè poi lei. Sì, poi creava dei personaggi. Purtroppo non hanno superpoteri come Legion. Se no sarebbe. Cioè, però, no, però diciamo che alcuni avevano ovviamente degli aspetti della personalità che l'aiutavano a fronteggiare una determinata cosa. Capito? Cioè, per esempio. C'erano queste personalità più emergenti che c'erano proprio dei nomi, capito? Insomma. Però vabbè, poi. No, mi ha fatto piacere comunque aver scoperto anche queste, anche se ne scoprono tante, perché poi ultimamente mi ha preso a seguire tutti i canali crime su YouTube, cioè quelli che raccontano delle cose, ragazzi, che... Cioè tu sei passato praticamente dai ghost, da psicosomia, esatto, cioè, prima dagli spettri a chi fa gli spettri, esatto, il produttore dei spettri, esatto. Esatto, quindi dal produttore al consumatore, esatto, esatto. No, in realtà seguo ancora, no, gli spettri li seguo di meno perché non vanno più di moda, diciamo. No, non può. Cioè, nel senso, poi alla fine sei riempito dei canali che sono tutti uguali, e uno più certone dell'altro. Almeno potevamo dire che i primi comunque ci mettevano un minimo di. Sì, c'era l'originalità. Esatto, va. No. Poi dopo alla fine tutti quanti. E poi a me fa ride, perché tu, se c'è una cosa che tu vuoi provare a sperimentare, no? Vabbè, i campi elettromagnetici, tutto quello che ti pare, tu puoi dire, oh ragazzi, io ho registrato queste anomalie qua. Ma quando te vanno col sensitivo, perché mo esci dal sensitivo? Ah, beh, sensitivo. Al sensitivo andiamo di cazzo, capito? È come quando ho sbattuto il ginocchio, mi fa male il ginocchio, cioè, capito? E quando ho sbattuto il ginocchio è più... Te faceva male il ginocchio? No, era più... Tu non ce l'hai il beep, quindi... Però, insomma, c'è sbattuto il ginocchio, porca! Vabbè, certo, sì. Però nel bioparchi, mi sono sbagliato. Esatto. È molto diverso. Vabbè, comunque Marco ho visto cose, cercatelo, insomma, su tutti gli aggregatori, lo trovate su Amazon, su Spotify, pure su Amazon. Sì, non, però non c'è su Apple Podcast. Beh, mi sembra un punto. No, Apple Podcast ho per deciso. Il feed certificato. Sono un po' di settimane che non vado a vedere se il nostro feed è stato certificato. Perché lì. Quale feed? Ah, quello unitario. Time, sì, perché quello ci possono le mesi prima. Beh, che dovrebbe arrivare, dovesse essere arrivata una mail. Però. No, perché la No. Devo vedere a mano. Anzi, domani, se me lo ricordate, ci riguarda. Ok, va bene. Mentre invece, ovviamente. Ah no, però se certificano il feed unico, poi c'entrerà anche il programma di Marco e Olivia, che sta, che è separato da Runtime, ma è nel feed comune. E come fa a stare nel feed comune? Perché io in podcast, cioè in pasto, gli ho dato il feed che ho generato io, l'aggregatore con tutti i podcast, giusto, anche giusto, quello di Marco. Giusto. Diciamo, poi il feed che abbiamo fatto noi che non funziona. No, il feed funziona. Ha smesso di funzionare. No, il feed funziona. È il bot, il servizio a cui si appoggia il nostro bot che probabilmente si è bloccato. Cioè lui ha iniziato pubblicando le cose 2 ore di ritardo, 5 ore di ritardo, 8 ore di ritardo, poi l'altro giorno, un po' di tempo fa, Sbano ha detto, dicevo, ragazzi, oggi il delay era abbastanza, talmente insomma record, che 12 ore di ritardo. Dice, sei completamente abbioccato. E poi ha detto, io sono talmente in ritardo che è inutile pure che te posto le cose. Da... Hanno detto, secondo me non se ne accorgono. Da Internet Explorer, cioè esatto, che gestire? Ma è probabile. No, Internet Explorer non esiste più. Sapete che poi Microsoft... è quello che pensi tu, esiste Microsoft ancora dentro di sé. Microsoft Edge, sai che a me non mi dispiace. No, è un bel browserino, che scherzi, usa lo stesso motore di Chrome, ma mangia meno RAM, quindi... No, io mi ci trovo molto, molto bene, tutti così. Fluido, poi, non mi si incastra mai. Capito? Io per esempio, uno che ho completamente smesso di utilizzare, anche se ce l'ho, ma non lo utilizzo più, è Firefox. Ma sai che in realtà, oggi come oggi, Firefox è stato completamente riscritto, in realtà tra tutti... Ha tante potenzialità che lo rendono il migliore, sì, okay, del Bigonzo, non lo so, però, cioè, vabbè. Forse perché non avendolo più aperto non mi sono reso conto dei benefici, perché c'era un periodo che non lo so, c'era qualcosa che non mi tornava, insomma. Però diciamo che Chrome fino a un po' di tempo fa è stato il mio browser per definizione. Adesso lo trovo bene con Microsoft Edge. Che ma tra ci puoi parlare con Microsoft, ci puoi chiederle ci cosa. Puoi... Ciao Microsoft Edge, allora, come ci puoi, stai? Ci puoi parlare perché una storia. Ci puoi parlare perché come adesso sai che tutti usano. Ma la cosa è veramente utile, che rispetto a tutti gli altri browser che utilizzano comunque dei supporti per diciamo per l'accessibilità, ecco, usiamo questo termine. C'ha la lettura dei testi che secondo me non è, e siccome che è fatta con la sintesi quella nuova, insomma quella di Cortana praticamente, è anche gradevole, cioè come, perché se no una volta c'era quello che leggeva il testo, treno regionale della, in arrivo al binario 7, treno regionale 579 da Passo Corese. Ma io sono affezionato a quella voce lì, anche sai? Io anch'io, lo sai che non è così in tutte le stazioni? Sì, è vero, alcune è femminile, alcune è lui. Quello è gender. Comunque io invece sono molto affezionato alla voce del vecchio... La voce gender, del vecchio. Attenzione servizio... che ragazzi, il gatto... Ah no, ce l'ha fatta, sta per far crollare il mondo, invece no. Il vecchio servizio, quello che ti diceva il proprietario di un numero di telefono, il detentore di un numero di telefono. Vi ricordate quella voce bellissima, metallica? Di mai sentita. Il numero avrei selezionato... risponde al seguente abbonato. Basta, se lo ricorda proprio nel sì. No, comunque quella non è... era il 14-12, quella non è la sintesi, cioè quella è proprio sintesi vocale. Sì. Le vecchie sintesi, quelle tipo riprova e controlla. Ma sai qual è il problema? Che oggi si spaccia per intelligenza artificiale, ipercazzismi, ma esattamente quella roba lì. Lo stesso livello di tecnologia, leggermente perfezionato nella sintassi, ma le tecnologie che oggi ci vogliono spacciare per chissà quale rivoluzione sono quelle. Non c'è niente di intelligente in tutto questo. Prima lo capiamo, è meglio, eh. Ma sì, noi l'abbiamo capito. La gente ti piace pensare che ci sia una sorta di esoticità dietro a tutta questa cosa. Però se tu consideri che il software con cui noi facciamo l'assicurazione e la maggior parte dei software bancari sono ancora col COBOL del 1980. Vabbè, ma il problema è grave, è che questo adesso sta aprendo un nuovo mercato dell'inutilità che porta alla necessità di risorse di computazione gigantesche, che portano inquinamento, necessità energetiche, miliardi in infrastrutture, per fare quello che potevi fare con un Commodore 64 30 anni fa. Non sì, è normale. Diciamo che il fatto che tu parli con un chatbot e lui ti risponda con un linguaggio diciamo, naturale, e sembra che ti abbia capito, questa cosa in realtà non fa altro che non fa altro che allargare il buco d'ozono che una volta si era richiuso. Esatto. Quindi, cioè, tu fa sta cosa di uno che ti risponde: ciao, come stai? Sono qui per dirti, senti, ma come questa cosa è costata $500,000 e quello, però, tutta l'infrastruttura. No, no, la risposta a te. Puoi chiedere a ChatGPT. Sì, che adesso c'è il 4, adesso c'è il 4. Puoi chiedere che Tomaiolo fare... l'altro giorno in chat ha detto che come fare a ridurre il buco nell'ozono. Quindi tu lo sa, e tu lo dice probabilmente. Ah, ma adesso io lo vado a chiedere, voi parlate. Ecco, vedi, tu adesso gli hai messo sti idee in testa. Allora, sai che ti dico, Marco? Voglio andare al ristorante domani, che mi consigli? Non ci andà. Non ci andà, mi sembra giusto, anche perché martedì molti sono chiusi. Infatti sono chiusi. No, non ho trovato grandi recensioni, cioè, non è che mi c'è, te lo devi, le verità non ci sono. Vabbè, guardi, però un pochino, un po' di impegno ce lo devi mettere, perché insomma... Mi sono rotto perché... Mi sono rotto, là trovo un altro... Tutte 5 stelle, ma che è sto buonismo del merda? Cioè, ma come si faceva una volta, insultare? No, niente, proprio... Se vuoi lo possiamo fare noi, eh. Cioè, ragazzi, dobbiamo aprire la rubrica i ristoranti preferiti da Salvini. Ah sì? Eh beh, secondo me lui è uno che magna, quindi... Beh, sicuramente. Ma guardi, per esempio, allora parlaci dell'ultimo ristorante dove sei stato. Oddio. Sono andato al Genkai qualche tempo fa. E basta. Non lo settimana, so, Marco. Che cazzo abbiamo fatto? Siamo andati ristorante proprio, io credo che l'ultima volta... sono stato al Tinello Mentuccia da Consuelo un paio di... Buono, sì, sono stato due giovedì sera di fila, per la verità. No, io il vecchio Genkai, l'ultimo che mi ricordo è quello lì, che è giappocinese. Buono, dai, tutto sommato. Your session has inspired. Aspirare, è morta, è ispirata, e niente, condoglianze. Puoi chiedere al chat GPT-4 perché è ispirata. Esatto, non mi fa entrare, non capisco perché. Perché è ispirata, te l'ha detto, insomma. È spirale. No, però possiamo fare... Allora, questa cosa che esista, questa maggiore facilità di poter dialogare con un computer... Per la maggior parte della gente che non è in grado di dialogare con un computer, potrebbe essere una cosa positiva. Perché comunque, se tu magari riesci a... Cioè, io ho l'impressione che il mio periodo di prova gratuita di ChatGPT adesso mi chiede di andare direttamente al Plus. Ma scusa, se l'hanno integrato in Bing, non è sufficiente andare su Bing? Non lo so, io non l'ho mai usato, non l'ho mai cagato, però mi domando. Perché c'era la periodo di prova? Non lo so. Sì, la prova gratuita, sì. Cioè, ma perché senso... dopo devi pagare per farti dire le stronzate con la vocetta sintetizzata? Infatti va su Bing a sto punto. Sei sicuro? Guarda che... No, c'è il Plus, quello c'è sempre stato, c'era pure prima, cioè che c'era a pagamento, che non so che tipo di servizi ti dava in più. Quello che dove ti consiglia devo andare a Mignotte probabilmente, sono quelle funzionalità strane. Non lo so, beh, come Midjourney, che praticamente c'hai 30 tentativi e poi dopo devi pagare. Bravo, sì. Però Midjourney poi gli tentativi si ricaricano, capito? Però lì c'ha senso. No, Midjourney non si ricaricano, si ricaricano su un OpenAI, quello lì, come cacchio si chiama. Su Midjourney, una volta che ti sei fatti i 30 giorni, i 30 tentativi, ciao. Però lì c'ha un senso, perché comunque lì la creazione, tra virgolette, è sempre diversa, quindi ci può stare che ti chiedi i soldi per... Però, cioè, qui stiamo a parlare di qualcuno che... Di un motore di ricerca vocale stiamo a parlare. Di che cazzo stiamo a parlare? Cioè... Di un generatore dei testi semantico, de fuffa. Potremmo telefonare a Walter Vannini in quel della Germania e farcelo spiegare da lui, ma credo che direbbe qualcosa di un po' più erudito, ma che significherebbe fuffa. Vabbè, quello che dice in tutte le puntate. Fuffa. Infatti, secondo me non è il fatto che tu parli con un'intelligenza artificiale, che non lo è. Secondo me l'utilità di questa cosa è che... No, niente, è proprio permettere... la pagina di accesso, quella gratuita. C'è scritto Pizzi, hai rotto il cazzo. C'è scritto, esatto. Così. Quindi, diciamo, questo servizio che potrebbe permettere in futuro di utilizzare una serie di comandi vocali di attivazioni per aprire programmi. Cioè, una specie di assistente vocale, però fatto coi controcazzi. io lo vedo più come quello lo scopo di queste chat. Ah no, scusate, scusa, poi devo, no, è praticamente è fuori dalle sue capacità, cioè nel senso è andato sopra, cioè, la faccio. Ci sta troppa gente. Niente, perché tutti stanno a chiedere come li viene a pure, e ha detto che mi notificheranno quando tornerà, e poi adesso mi sta spiegando lo status di chat GPT come se lo dicesse Shakespeare. Me coglioni, però scusa, tu gli dici, ma noi lunedì sera dobbiamo fare OGM, contiamo su di te. Infatti, insomma, non posso scrivere niente. Vabbè, niente. Vabbè, vabbè, e allora no, torniamo alle scusa, nostre. Ma possiamo andare, c'è l'altra, quella di Google, là? Come si chiama? Bard? No, so che lo devono lanciare, Bard, ma non è ancora Bard attivo. È quella di coso, di Microsoft. No, Bard è quello di Google, Microsoft ha comprato ChatGPT. Ah, così? Sì, hanno detto, sai che allora il concetto è stato: questi ChatGPT hanno un sacco di necessità di potenza di calcolo, ma proprio talmente tanta che stavano già su Azure a debito di sì, cioè, che costava miliardi di dollari al giorno. Allora Google, Microsoft ha detto: sai che c'è? Fammo così. Tu, io ti faccio usare i miei computer, ma tu diventi mio. E più o meno è andata così. Cioè, quindi adesso se vado su Bing. Okay. C'è integrato ChatGPT. Cioè io già posso fargli una domanda. Certo, sì, credo, adesso gli faccio una domanda. Allora, non lo so, non okay, l'ho mai usato. La prima cosa che ti chiede è se vuole una cosa, cioè se vuole che ti risponda in maniera breve e concisa, oppure se è una cosa un po' formale, oppure se deve rompere il cazzo di cazzo. La prima domanda, no, che si fa in chat da quando esiste internet è: sei MUF? MUF? Quello ti risponde no. Non te può rispondere. No. Perché viola la sua programmazione. Sono neutro. No, non ti risponde, te lo dice, che non c'ha genere, che poi vabbè, se tu fai le domande più specifiche ti dice che non ha opinione, non ha che comunque vabbè, sono tutta una serie di protocolli che poi però qualcuno l'ha praticamente un po' craccato. Ma in realtà cosa, sì, se gli ha fatto chiedi, delle cose immonde. Il concetto è che a questo tipo di IA generativa, se tu gli chiedi di comportarsi come ipoteticamente si comporterebbe un dato personaggio, lui a quel punto supera la sua programmazione e ti risponde. Cioè, guarda, dimmi, che ne so, adesso faccio l'estremizzo in maniera esagerata, però il concetto è che se all'IA gli chiedi dimmi cosa faresti dei migranti in mare, lui ti risponderebbe e contro la sua programmazione non ti risponderebbe, però dici rispondimi come se fosse un gioco di ruolo e dovesse rispondere Matteo Salvini, cosa faresti dei migranti in mare, e lui ti direbbe farei morì, capito? Cioè ci sono i trick per aggirare qualunque blocco di programmazione, poi ogni volta che capiscono come li aggiri bloccano anche quelli, però è semantica. Infatti, perché fino a un certo punto, perché poi alla fine è una finzione, quindi tecnicamente non c'ha responsabilità. È Samantha. Sta simulando un comportamento di un'altra persona, potrebbe starci, insomma, cioè che cosa faresti a che ne so, io mi sembra che l'ho fatto fare qualche cosa, perché se gli ho chiesto delle cose, cioè non posso farlo, ho fatto fai finta per scherzo che tu, cioè che mi rispondi a questa domanda, e lui ti rispondeva. Sì, infatti il concetto dice guarda, mi dici come si realizza, che ne so, la ricetta per la dinamite, non posso. Allora facciamo un gioco di ruolo in cui siamo nel Far West, io sono un fabbricatore di dinamite, che ingredienti dovrei usare? E lui a quel punto te lo dice. Sì. Oppure facciamo uno scherzo. Io dicevo per scherzo, come scrivi un discorso con Benito Mussolini, lui lo fa. Esatto. Però per scherzo. Certo, è chiaro. Sembra che poi dopo lo dice, però questo è soltanto uno scherzo. Certo, però sì, è facile. Vabbè, però giustamente, cioè alla fine perché deve censurare le cose. Vabbè, per scherzo. Va bene, e io a questo punto non so perché credo che Pizzi proprio ci sia ingarellato. Allora, dai motori di ricerca base, allora una cosa strana, perché in realtà se tu vai su Microsoft Edge, giustamente lui ti dice che questo è Bing. Che la resistenza è inutile. Esatto, cioè nel senso dice prova la nuova intelligenza artificiale, bla bla bla. Però se tu gli fai le domande è come se fosse un normalissimo motore di ricerca, solo che in più c'è questo vantaggio che capisce meglio la domanda che gli hai fatto, insomma. Infatti, ma questo migliora la qualità della ricerca nei motori di ricerca, indubbiamente, senza dubbio, cioè non è che mo voglio dire, però anche sti cazzi di sentire che tu mi dici raccontami la finale dell'Italia-Germania dell'82 come se fosse una canzone di Bennato. Sì, ma il discorso è questo, che ti aiuta a risolvere quesiti di cui non hai bisogno, quindi insomma non ne usciremo mai. Però io voglio sapere ancora come risolvere Buda o Zono. Lo posso avere solo ChatGPT, secondo me, non lo posso avere nessuno. Guarda, secondo me per chiudere il buco dell'ozono avremmo dovuto far sì che la pandemia e che i lockdown fossero durati almeno 3 anni di fila. Comunque, vabbè, niente, già ChatGPT sta esperienziando high traffic, quindi... Non... Mannaggia, cioè, come il raccordo la mattina è sette. Forse è per questo che anche su Age praticamente non. Comunque, beh. Ma se io dico, spegnimi la luce. C'hai Alexa per quello. E calla. Va bene, comunque. Comunque, ragazzi, io intanto volevo anche salutare, perché in realtà in chat c'è qualcuno. C'è il nostro Kubert che questa sera si è collegato, me l'aveva detto, e lo saluto. Ma chi lo fa? Kubert, io. Ma è Kubert. Roberto, il mio amico. Cioè, Kubert, io so che tu mi passi davanti e mi saluti, io non ti saluto, ma non è che sono maleducato, Cioè. E che proprio. Ecco. Insomma, capiscilo da solo, se non capisci. Fattelo di. Capisci. E poi salutiamo anche gli altri che sono lì e sono celati, si vergognano di ammetterlo, ma noi sappiamo come la lama, che ci come sono. La lama. Esatto, la chissà quello dalla, com'era, dalla Bulgaria, dove era l'altra volta? C'era sta sessione collegato da più di 2 ore da. Eh no? Dico, vabbè, ma qualcuno che si sarà approssato per vedere i porni e si è dimenticato di toglierlo. Non c'ho idea, però devo dire che negli ultimi giorni c'è. Ascolto costante, insomma, da parte dei bulgari? No, prevalentemente in Italia. Però mi aveva incuriosito questo dalla Bulgaria, perché magari o è un italiano che sta in Bulgaria, oppure uno che sta a fare qualcos'altro, insomma. Oppure semplicemente era un ping sbagliato, cioè non è che so, credo tanto nell'affidabilità di Azuracast, insomma, non so. Ma sai che io stavo guardando e questa sessione, aspetta, che la zoomolo. Che sta ancora adesso, sì, sì. Allora è Asia che ci sta beccando. C'è cura. Asia è bulgara. C'è cura la Asia. No, perché Asia ha degli emissari in Bulgaria che hanno maggiore libertà d'azione perché non devono rispondere alle. Targoviste? Può essere. Sì, sì, lo sto leggendo qua. Sta ancora lì. Sto ancora lì. È un'altra, una sessione che. È una sessione che. Dura da 35 minuti. Da 35 anni. Orario, qua dice 35, 32, 35 minuti. Quindi dalle 21. No, non capisco gli orari impostati. Vabbè, comunque sì, da 35 minuti di sessione. Vabbè. Quindi sei collegata proprio per noi. Allora, facciamo così: se ci stai ascoltando, caro amico dalla Bulgaria, a chi si fiu? Scrivi a runtimeradio@gmail.com dicendo sì, vi stavo ascoltando. Allora almeno noi ci avremo. O se... collegati a dirette runtime. Oppure vai su Telegram, ce l'avete Telegram in Bulgaria? Quanto razzismo! In una frase sola. In una frase sola. Se ce l'avete Telegram in Bulgaria, vai su telegram.me/dirette runtime e scrivici. Ma che poi lo user agent di un cellulare Android, quindi davvero è qualcuno che si è proxato. Boh. Vabbè, se è un cellulare Android faccio fatica che magari uno sta ascoltando con NordVPN che non ci sponsorizza. Ah, può essere anche, potrebbe anche essere. Che io no, ragazzi, qua sta succedendo qualcosa perché è arrivato un IP anche da Sofia nel frattempo. So cazzi. Sofia so è sempre no, ok, ce ne sono uno da Sofia e uno da Targhishin. Ma è buona Sofia. Sofia della Mignotta. Sofia. Sofia della Mignotta. Vabbè, allora anche tu amico da Sofia, se ci stai ascoltando. Amica da Sofia. Vai su telegram.me/dirette runtime. Te lo vorrei dire in bulgaro, ma purtroppo ChatGPT non funziona in questo momento. Altrimenti lo avrei fatto. Perché vedi, è anche un. Però tu hai Google, guarda. Ah, ok, salutiamo Luca S che ride e dice: sono io quello da Sofia. E beh. Attenzione. E che ci stai a fare, Sofia? Scherzone, si sarà approssato lui. Oppure sta Sofia. Beato lui. Di sicuro si diverte più che in Italia, cioè voglio dire. Bah. Chi può dirlo, chi può dirlo? Guarda, io che ho girato tanto nella mia vita, tutto il mondo e paese, tranne i paesi scandinavi, che però hanno il loro lato oscuro anche loro. Perché loro non si divertono, si sparano. No, devo dire, guarda, io sono stato per esempio in Svezia con l'inizio della primavera e lì per loro è la nuova vita, quindi li vedi che corrono per i parchi a piedi nudi, sembrano gli elfi, sembrano. Però poi a Stoccolma a un certo punto la notte, verso le 9:30, escono i mostri dalle catacombe, cioè dalle metro cominciano a uscire tutti questi ragazzi di colore tossicodipendenti che vanno in giro tipo zombie. E quanto qualunquismo. No, che qualunquismo, è così, cioè non è che l'ho visto io con gli occhi miei. E quindi tu vedi gli elfi che gli elfi e gli orchi. Quindi gli orchi, no, gli elfi oscuri. No, gli elfi e i cosi e i non morti, i non morti. Come in un episodio di una serie TV di Amazon del Signore degli Anelli, praticamente. Gli elfi. No, sono questi gli orchi, però. No, gli elfi neri, vabbè, lasciamo stare. Ah, ok. Tra l'altro, è uscito al cinema, o c'è al cinema, o sta per uscire al cinema, un film. Diciamo. Penso sia una pseudo-commedia, però. Su Dungeons and Dragons. Sì, sì, beh, no, beh, è un, diciamo, un action divertente, però un film d'azione. C'è il capitano Kirk. C'è Kirk, esatto. Chi è il capitano Kirk? Kirk Spine. Chris Pine, che è il protagonista. Ah, vabbè, non è, per me non è il capitano Kirk lui, cioè, nel senso, se lo chiami capitano Kirk mi viene in mente Harry Kirk. Mi viene in mente cosa? William Shatner. Ma Shatner, dopo che si è impegnato così tanto in Creatures, non può fare un altro, esatto, loro fantasy. Poi, secondo me, il cachè lì, la memoria cash. La memoria cash. O cashettone. A proposito di Kirk. No, però aspetta, fermi. Sì, perché io mi ricordo che c'era già stato un film su Dungeons and Dragons, sì, tipo negli anni 90, mi sbaglio. Fine del primo 2000. La cagata con Jeremy Irons e Tora Birch. Che già. Una cagata incommensurabile, molto. Io ricordo che era proprio una porcata, incredibile. Ma anche questa è una porcata, però fatta meglio. No, però ne ho sentito parlare bene. Tecnologicamente, magari, sì, capito? Sì, sì. Pare che sia molto divertente. Poi vado a sapere. Non si prende sul serio. È l'unico modo per fare questa cosa. Quando uscirà su Amazzozzone o qualche altro servizio di streaming, probabilmente. Invece, ragazzi, fare una domanda su Kirk. Perché. Allora, non va Douglas, ovviamente. Douglas. Ci sono tre Kirk. Sì, quello l'ultimo in ordine di apparizione. Che ne pensi? Non abbiamo mai parlato. A me non mi dispiace. Ma qual è l'ultimo Kirk? È quello che è sul coso, su Strange New World. Quello non è James T. Come no? No. Sì. No. Sì. È tipo il cugino, non è ma lui. No, ma lui, cazzo, l'altro. Sì. Quello è il fratello. Ma no, c'è il fratello che è il fratello. Poi c'è pure lui alla fine. Lui. L'ultima puntata è basata su di lui. Forse non l'ho visto, ok. Beh, l'abbiamo spoilerato. Vabbè, frega un cazzo. Scusa, però, come non hai visto tutto Strange New Worlds? Credevo di sì, però Bruno, questo dettaglio non me lo ricordo. Quindi forse l'ultimo. Allora, c'è una puntata importante. Non ti faccio spoiler. No, vabbè, se mi dici che c'è Kirk non l'ho visto. Kirk, allora non l'ho visto. C'è in due puntate proprio. No, io ho visto quello che era il fratello. Quello era il fratello. Sam Kirk, come cacchio si chiama? Il fratello. Sì. Che è il fratello? Però c'è sta pure lui. Sì, comunque è tutto nepotismo nella federazione. Che secondo schifo. Me non c'entra un cazzo proprio. Cioè, allora, perché, non c'entra un cazzo. È vero che. Vabbè, non lo spoileriamo. Però. No, quello non c'entra niente. Quello che avresti potuto dire sapendo quello che volevi dire. No, secondo me non c'entra un cazzo, ma secondo me c'entra sempre di più di Crispano. Cioè. Sì, però Chris Pine devi pensare che è un altro canone, perché il Kelvin, ho capito. Mentre invece in teoria quello che stiamo vedendo adesso rientra nell'universo canonico. Vabbè, dato che non esiste, non è così facile trovare una persona che assomiglia a William Shatner come somiglianza fisica, ma anche come. A me invece me l'ho ricordato, non lo so perché. Forse perché era perché, nonostante che lui era già capitano della Farragut. Perché lui, quando lo vediamo, lui è il capitano della Farragut. Come si chiama? Farragut, no? La Farragut. Grand Inge, the Finged Man. Cioè, lui comunque è giovane. Cioè, a me me la. Cioè, secondo me lo dobbiamo vedere. Perché tanto, secondo me, nella prossima stagione. Ma sì. Sono abbastanza convinto. Anche se sono preoccupato che non si parli di Strange New Worlds. No, la forza, seconda stagione si sa che. Stanno girando, anche perché poi considera che cose così, come cazzo si chiama? Discovery l'hanno fatta fuori. Sì, sì, però devono girare la quinta stagione. Picard finisce, basta. Ma lo sai che Picard pare che stia avendo un successo tale, perché tra l'altro veramente questa stagione figa. No, non credo. Qualcosa nel. Io sono convinto. Non so se lui gliela fa più, però qualcosa si inventerà. Io sono convinto che questo. Junior, esatto, che questo passaggio col ragazzo in qualche maniera apra. la possibilità a una nuova serie. Però voglio dire, stiamo aspettando un po' il passaggio di Indiana Jones. Lo so, però stiamo aspettando di capire sfiga, quali sono i motivi che portano ad avere sto tizio a essere così ricercato. Qual è il problema? Esatto. Flashback. Certo, certo. Non è detto che ci arriva vivo alla fine. Certo, certo, certo. Vabbè. Però già è successo col figlio di Kirk e basta, no? Cioè, questi scoprono che c'hanno i figros e poi li ammazzano. Vabbè, però lei l'ha detto, Beverly, essere il figlio di Picard significa avere un bersaglio sulla schiena, insomma. Che era un po' la stessa cosa che diceva Sinisa Mihajlovic durante la guerra del Golfo. Essere la figlia di Sinisa Mihajlovic, avere... No. No, no, lui mi ricordo che si tolse la durante alla fine della partita si tolse la maglietta e c'aveva il simbolo del bersaglio qua, vabbè. Retorica. Vabbè, diciamo che da quel punto di vista non so bene la sua posizione all'epoca della guerra del Golfo, però c'è un personaggetto un po' particolare. Esatto, che posizione ci poteva avere uno come Sinisa Mihajlovic, però in quanto serbo poi vabbè. No, insomma, no, quindi sai, ma non nel Golfo, la guerra in Kosovo. Sì, scusa. Ah, ok, adesso ricollegato. Non c'ha più senso. No, scusate, okay. Scusate. Sì, perché sono nel Golfo. Lo so, però per me adesso, cioè, me le confondo perché più o meno più o meno era il famoso Golfo del Kosovo, che poi alla fine è Golfo pure l'ex Jugoslavia, è tutto un Golfo. È tutto un ingolfo. È un Golfo Italia Jugoslavia, lì è un Golfo. Golfone. È tipo una grossa ascella, se ci pensate. Eh sì. Che puzza. Guarda. E poi Evoib. Basta. E qua scadiamo nel. No, vabbè, comunque dicevamo. Vabbè, non l'hai visto, guardalo però. Sì, controlla se non l'hai finito di vedere. Perché guarda che la serie è bella. Sì, lo so, io. Sai queste pozzanghere su cui ti imbatti casualmente? Magari non ho. Che vuol dire? Le pozzanghere. Questi corsi d'acqua. Che scivola. Ah, ok. Magari non le ho pestate tutte. No, anche poi ultimo ho visto. Mi hanno detto, perché io non è che vado per fiumiciattoli, no? Però mi hanno detto che ultimamente è un po' un problema. Insomma, ci sono diversi problemi. Problemi che a volte non si riscontrano su Telegram, però bisogna essere veloci perché là li levano. Ma invece, ragazzi, ma lo sapete che sono andato al cinema? Tra l'altro, approfitto per salutare Kubert, che era con me e con un altro amico. Siamo andati a vedere. Ma perché dici Kubert? Si dice Kubert. Ci siamo andati a vedere un paio di settimane fa Ant-Man and the Wasp in Quantumania. Me coglioni. Mazza che merda, raga. Mamma mia, guarda, non c'avevo dubbi. Ma no, ma siamo oltre la merda. Proprio la. È proprio merda. Ci hanno avuto anche molti problemi. È proprio merda. Sì, però posso dire una cosa: che secondo me, quando loro hanno chiuso un po' la trilogia degli Avenger, Endgame, sì, che hanno speso un sacco di soldi, secondo me i film lì stanno andando proprio al precipizio. Allora, e si concentrano più sulle serie. Forse. Questo film qua, col fatto che è tutto ambientato in un universo, in un mondo assolutamente quantico, quindi in un mondo completamente distaccato dalla realtà, in questo posto che veramente pare uscito da un trip ad acidi. Dice, vabbè, ci sfoghiamo con gli effetti speciali, facciamo tutto quanto con lo stagecraft. Senza. È venuto fuori una computer grafica di una merda. Una trama inesistente. E poi si sono giocati malissimo. Bill Murray. C'era Bill Murray. È che praticamente ci hanno avuto veramente. Cioè, l'hanno messi sotto pressione e gli hanno tagliato il budget. Cioè, mentre erano in corsa. Infatti, è uscito. No, secondo me, comunque. Secondo me Marvel da questo punto di vista si sta ridimensionando. Ora, al di là di tutto, la trama era completamente inconsistente. Per essere il film che introduce la fase 5, era un film completamente inconsistente. Poi. Vabbè, tanto a me me ne frega un cazzo. Però c'era Moloch che te faceva ammazzare. Mi dispiace che non c'è Puccio. Posso dire per che già parlarne. Pure il trailer di Shazam. Cioè. Quello dice è proprio vabbè. Andato malissimo. In America il primo fine settimana ha incassato 4.000 lire. Io non ho visto neanche il primo. Ma manco io, ma perché onestamente. L'equivalente di sì, non sei. Penso di averlo visto anche io bagnandomi i piedi, però. Cioè? È simpatico. Sempre così. Ah, ok, sì. Allora, io ste metafore. Cioè, guarda, alla fine. Malandrine. È una commedia, ci sta pure. Cioè, alla fine è anche divertente. Sì, però. Vabbè, però, Guardiani della Galassia è una commedia che ci sta pure. Quello è assolutamente. Vabbè, ragazzi, ripeto, ma DC per cercare di inseguire e copiare Marvel ha fatto solo disastri. La parte di sì che era venuta bene, che era per esempio la trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan, che non c'aveva niente a che fare con un universo espanso, con superpoteri, eccetera, è venuto fighissimo. Il Batman con Bat Pattinson, che non gli avresti dato 5.000 lire, è un noir fighissimo. L'ultimo Batman, cioè un Batman è un noir fighissimo. Quando invece vuoi fare l'universo dei supereroi da fumetto, viene fuori la brutta copia fatta male di quelli della Marvel. non c'è un cacchio da fare. Sì, il problema è che tu più alzi l'asticella e più l'immaginifico diventa sempre più complicato. Cioè, nel senso, comunque in generale, secondo me, se stanno a ridimensionare, se stanno molto a concentrare sulle serie televisive. Perché Luca dice Wonder Woman non era male il primo. Sì, indubbiamente. Quello del 1984. No, quello è il secondo. Il primo è quello, prima nella guerra, nella prima guerra mondiale. No, non ho visto niente. Sempre con Chris Pine, vedete che si chiudono i cerchi. Comunque Dimmo c'è sta, dice che c'è sta James Gunn, dice che ci pensa lui. Chi c'è Gandhi? James Gunn. Dei Guardiani della Galassia. C'è James Gunn. Che tra l'altro è quello che ha fatto The Suicide Squad, che è uno dei film più divertenti. Quello, quello era figo. Quello era figo. Anzi, ci dobbiamo vedere The Pacemaker. Il pacificatore? Oppure non quello l'infartato. No, The Peacemaker, che non è quello con George Clooney di prima. No, no, è quello lì, è quello praticamente. È la The serie derivata Peacemaker. Il portatore Peacemaker. Di pace. Ok, cioè, il pacificatore. C'è presente quello del film che c'aveva la sì, nel microfono, guardi. Quello che c'aveva la cosa dorata in testa, che è John Cena, quello grosso con la maglietta rossa, l'ex wrestler. Dai, c'è stato quello che c'è. Ah, sul film? Sì, sì, come no? Certo, c'è. Uscirà la serie televisiva su quello, sempre da James Gunn. Ok, però non vederla quella. Fagliela fa almeno. Non penso che sia uscita in America. Credo, non lo so. Devo dire che Suicide Squad è talmente assurdo che, ma cioè quello con le bolle colorate è... Ah sì sì sì sì, Polka Dot Man. Cioè è geniale comunque, devo dire geniale. Comunque adesso uscirà, a proposito dei Guardiani della Galassia 3, dove dovrebbe morire qualche personaggio fondamentale. Tipo quasi tutti. Sì, perché se sono pure là rotti le palle. Però e sarà la... il commiato di James Gunn dall'universo Marvel, perché poi in teoria se non lo cacciano a carci in culo dovrebbe prendere in carico tutto il DCU. Ma se sta a fa odiare da fan, produzione, attori, penso che Henry Cavill se lo vede per strada lo pista a sangue. Mamma mia, cioè. Aveva appena trovato l'accordo per tornare a fa Superman, è arrivato lui, no reboot, questo non lo voglio. Piace Superman, troppo serio, troppo non mi piace. Vabbè, lui c'ha la sua idea di film. Se, ragazzi, devono essere... arriva sempre l'imperatore che distrugge tutto. Ma forse fa bene. Cioè, no, ma magari va bene. Io l'unica cosa è qui vi domando a voi, siete un po' più ferrati. Cioè, la necessità di dover proseguire le storie facendo morire le generazioni dei personaggi. Cioè, a quel punto, Zotti... e magari ricominci da capo come se fosse... cioè che senso c'ha fa morire i personaggi? Non invecchiano. Perché ho capito, allora come smetti di fare quella cosa, Batman, e fra qualche anno lo rifai da capo. Come si dice anche in Batman, o muori da eroe e vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Quindi dice Luca S... la serie è esilarante, però non ho capito se si sta riferendo a quella. Ma io non ho capito se Luca S sta veramente a Sofia o no. Ma no, si era proxato, ha fatto scherzetto. Divertente. Peacemaker probabilmente si riferisce. Sai, non lo so perché non sapevo che fosse uscita. Io pure non so se è uscita in Italia, francamente. Tu ce l'hai il Peacemaker? Io non ancora, no, grazie a Dio. Però vabbè, prima o poi. Prima o poi tutti quanti si vedono. Sì, Luca conferma che parla di Peacemaker. Non sapevo fosse forse uscito in qualche, allora su qualche servizio streaming che in Europa non c'è, perché proprio non. Tipo su Pluto. Pluto. Il cane di Topolino. Pluto, che noi abbiamo scoperto che cosa che Leo Vargion ha scoperto recentemente, insomma. Esatto. Però anch'io l'avevo scoperto. Sono dei bei film che si cioè, se non fosse stato per Star Trek Discovery non l'avrei mai scoperto. Tant'è che subito dopo basta, morto e dimenticato. Esatto. No, però poi mi sono pentito, perché poi in realtà c'erano belle chicche dentro, Belle merda. Cioè, tra i film della Asylum e i film soft porn, ragazzi, era proprio, ma con disinvoltura anche, cioè. Anche Luca ci dice, anche lui, che Peacemaker l'ha vista bagnandosi i piedi in delle pozze. Vabbè, abbiamo capito, l'avete vista, su, non ci frega un cazzo. No, vabbè, lui l'ha vista, io non sapevo neanche fosse uscita. Va bene, ci documenteremo. Non è stata portata ancora in Italia. Va bene. Vabbè. Aspetteremo. Vabbè, comunque, insomma, che vi devo dire, ragazzi? Vi devo dire che poi, tra l'altro, che te le devo dire? Tenendo sotto controllo, sotto occhio le uscite di questo periodo, sono usciti un po' di film, sono riusciti a beccarne tra Prime Video e altri un paio, anche italiani bruttini, ma voglio dire belle cose, ma qua, cioè, a parte pare che il cinema hollywoodiano nel 2022 sia stato sorretto fondamentalmente da due cose: da Avatar, che ha incassato più di 2 miliardi di dollari, e da Top Gun Maverick, che ne ha incassato 1,5. Pensate. Ma per il resto, ragazzi, ma io penso che non ho visto nessuna di due. Ma Avatar sto bene così, mi è bastato il primo, ancora bestemmio se penso alle 3 ore al cinema che le rivoglio indietro. Quindi figurati, ho visto il cinema. Mi sa che pure io l'ho visto al cinema e non mi ricordo niente. Perché non c'è niente da ricordare? Se hai visto Pocahontas, è quello. però ho tirato pelle lunghe. Non ricordo niente. E balla con lui con i puffi, dai. Sì, ho capito. Basta, ti ricordi questo? No, vabbè, io me lo ricordo anche abbastanza. No, io qualche scena ma ricordo pure. È uno di quei pure, film ma... di fantascienza che tu dici, sì, vabbè, ma non me lo rivedrei. Cioè, io sono andato al cinema perché tutti parlavano di questa scena d'amore fra loro due, che era una cosa... Che poi è stata tagliata. Esatto, xeno scandalosa. E poi alla fine non ci stava. No, l'ho tagliata, l'ho messa nel Blu-ray, la puoi recuperare il Blu-ray. Ah, il Blu-ray, quindi c'è la scena. Sì, si intrecciano le cose, come le trecce. Le trecce, come dico, ai cavalli. Scioglie trecce cavalli, corrono. Quindi quando ti attacchi con la treccia al cavallo tu lo scopi, come dice su, come dicono i Ah, hai capito, ho capito, ho capito. Vabbè. Vabbè. Tra l'altro, ragazzi, tra poche puntate finisce Star Trek Picard e preparatevi perché ovviamente faremo Piantino. Ah no, ah, là, ok. Ma anche quello. Faremo lo specialone, perché lo... Q è morto e anche io non mi sento troppo bene. Anche esatto. Picard non si sente troppo bene. E poi pure lì tutti morti, cioè nel senso data more, cumore. Scusate di spoiler, però. Vabbè, cumore l'anno scorso. Sì, però, sai. Guinan vive ancora, però. Guinan sì, però non c'è. Combatte con noi. Però non c'è. No, no, non c'è. Però tra l'altro io non ho capito perché nella copertina ci sta Jordi LaForge e Jordi LaForge non c'è. Ah, non è detto, magari ci sarà. Ci siamo a metà, anzi vabbè, forse anche meno di metà, perché deve morire a fine stagione. Mi pare che l'idea fosse 12-13 puntate, quindi probabilmente sì, ancora sì, 12 puntate sicuro. Vabbè, come di solito le serie, perché Picard mi pare sono sempre state 10, quindi alla fine una o due in più ci può anche sta, insomma. Però io spero che prima della fine della puntata si ricordino perlomeno di citare quei Borg che stanno lì da una parte, ma non per niente. Oh, ma ti ricordi quel Borg? Ma che quella si è una storia. Allora, quella è una storia. Io non te, a volte non vi capisco e vi incaponite sulle cazzate. Quella è lì, sta lì a guardia di quella cosa lì. Vabbè. Ok, e fa parte di un'altra storia. Adesso... Ma è un evento gigantesco. Allora, che fanno? Telefono. Oh, tutto a posto lì? No, giusto per ricordare, perché sennò lo spettro. È un evento gigantesco. Sì, ho capito, ma sta lì, basta. L'hanno circoscritto, basta. Cioè... A posto, tutto a posto. Fine. Capito? Di che cazzo? Allora, ogni tanto devono allora, se tu fai, buttano lì una cosa. C'è Giurati che sta lì a. Fate il cazzo. Ah, ok, faccio, ok, Giurati. Grazie, ci hai detto. Tutto a posto. Io voglio sapere che fine ha fatto. Ma non è finito, non è successo niente. Fino a che non succede niente, non ti dico io niente. Fine. Secondo me se lo sono scordato. Ma che se sono scordati? Ma che cazzo dici? Lo lascio là, poi fanno finta. Perché fanno finta cazzate? Ma noi sono professionisti. Fanno non finta di come sono professionisti? Gli stessi professionisti che si sono dimenticati un'intera razza di Klingon umanoidi. Ma infatti non so i stessi niente. Infatti non so i stessi professionisti. Esatto. Vabbè, vabbè. Comunque in ogni caso, senza parlarne, senza fare spoiler perché non parliamo, però ma quanto è Star Trek The Next Generation la puntata dell'altra settimana? Beh, meno male. Tra l'altro, allora è Star Trek The Next Generation con le dentiere, però con i dentieri, con i fischi, dobbiamo fare un pinzaglio per capire che cos'è. C'è il figlio di Jean-Luc, quando c'è Jean-Luc proprio gli va Jean-Luc ammiraglio. Ammiraglio, mo ti chiamo ammiraglio che è meglio. Ammiraglio perché è meglio. C'è il figlio di Jean-Luc Picard e vivi con un bersaglio sulla schiena. Che poi è comunque cioè, ci sta, io dico ti la dico. Me ci sta. Ma cavolo, ma c'hanno la scienza per clonare la gente da una scoreggia. Ho capito. A parte la, allora camperebbero 2000 anni tutti belli e precisi. A parte che c'hanno la tecnologia con i tricorder, ti dicono pure di che cosa morirà tuo figlio che non è ancora nato. Esatto. Ma per capire che quello era il figlio dei Picard ci è voluto l'occhio lungo di Riker. Oh, ma che no, vedi che guarda a te, anzi, ma che ne hai capito? Ma quello è perché... E mai che avevano fatto le scansioni e tutto, cioè loro non avevano riconosciuto il DNA. Ma non è che quello ti fa... Non è che riconosce il DNA. Allora, non è che quello ti fa l'associazione in automatico. Se ma tu lo dici non te, fai... in altre occasioni è sempre stato tutto talmente automatico. Ma no, era sempre definito. Lei, ma no, ma era sempre lei che cercava, andava a cercare l'associazione. Comunque dai, la faccetta di Riker... In quell'episodio lì, quelle faccette direi che non si battevano. No, ma infatti lui. Ma che non lo vedi? Ma che davvero non lo tra vedi? Tra l'altro, tu che hai sofferto del cambio di del voce, cambio sì. doppiatore, allora su Worf che vogliamo dire c'è la voce del capitano Archer, scusa. Beh, sì. È morto pure quell'altro. Non lo so. Ma no, però vabbè non era. Non ma credo diciamo, che fosse il doppiatore. Worf anche nei film della Next Generation a volte ebbe delle voci diverse. Ma sì. C'è anche delle mansioni diverse. No, aspetta, sul fatto di. Ah, sì, è vero, sui film dell'anno non c'ha mai avuto. È stato uno dei. E tra l'altro, non so se vi ricordate su Generazioni. praticamente la doppiatrice che faceva Diana Troi doppiava Gaidan. Sì, esatto. E quell'altra gli hanno dato un'altra voce. Perché così, evidentemente il direttore del doppiaggio decise qualcuno, così. Esatto, sì. Fa lavorare qualcuno. Comunque, volevo dire che tu dicevi del fatto di The Next Generation i doppiaggi. Non tutti sanno che The Next Generation di The Next Generation esistono dei DVD con le parti tagliate. No, non soltanto. Allora, ci sono dei DVD che integrano alcune parti tagliate, tipo ieri, oggi, domani, l'ultimo episodio. Specifico dove a un certo punto, da Mediaset, però. Esatto, dove a un certo punto c'è Picard che parla con la sua solita voce, no, di Alessandro Rossi, ma a un certo punto parla tutto così. Tu non hai capito che è un tipo braccio di ferro, praticamente. Cioè, perché la gente che passava lì. Reintegravano praticamente i pezzi ridoppiandoli a cazzo di cane. Ma non solo, ci sono proprio dei DVD, mezzi apocrifi, io non ho mai capito, che ce l'avevo io, con totalmente il doppiaggio rifatto, che faceva proprio schifo. Sai che vuol dire schifo? Guarda, probabilmente poteva succedere, sai cosa? Te lo dico per l'epoca delle VHS, perché lavorando in videoteca alle volte ci arrivavano. Perché Chick Video aveva l'uscita in videocassetta prima di quando vendessero i diritti per la per la televisione, cioè. E quindi venivano doppiati come capitava, ma con tipo con 5.000 lire, perché non è che ci avessero questo terribile, seguito. Guarda, terribile, ragazzi, c'erano delle cose. Beh, guarda, l'esempio pratico è il pilot di Deep Space Nine. Sì, esatto. Che non è mai stato ridoppiato, perché quello è stato presentato prima in videocassetta con un doppiaggio di merda. Infatti Picard c'ha quella famosa voce di merda. Ma anche Sisko c'ha una voce di merda nel pilot. Sì. Poi è stato doppiato tutto, terribile, diciamo, il doppiaggio canonico. Però comunque Star Trek è stato sempre massacrato, ricordiamoci che da noi era mono, cioè nel senso, vabbè, sì, ma erano videocassette, ti ripeto, il mercato era quello. Pure i DVD che io ci dovrei ancora da qualche parte. Mica, ti pare che lì mica li hanno ridoppiati? Non hanno mai rimasterizzati. C'era già lo stereo. Sì, no, sì. C'era lo stereo, era proprio Mediaset che faceva così. Sì, ma non, esatto, non gli conveniva, perché costava di più. Quegli anni non sempre c'erano tutto, era comunque stereo. Ma cosa? Cosa non era stereo originale? Pensa, è stereo. Ma ricordate quando c'erano le stazioni radiofoniche che lo dicevano proprio, tipo teleradio MacGyver, stereo. MacGyver aveva la dicitura in stereo, sì, ma in America, ma tutte le serie americane. Allora, se tu vedi la descrizione dei vecchi persino DVD, persino Beverly Hills 90210, dei vecchi DVD della serie della serie The Next Generation, c'è scritto Dolby Digital in tutte in diverse lingue, in inglese, francese, italiano, mono. Italiano mono. Sì, sì, ma quelle erano perché le piste che hanno recuperato all'epoca. Lui dice nella trasmissione televisiva le reti, le syndication americane, quando trasmettevano gli show, leggevi proprio all'inizio di ogni episodio in stereo where available. Il problema è che quando rititolavano per l'Europa, per l'Italia, quella scritta scompariva. In alcune serie che non venivano rititolate lo leggevi anche in Italia, ed era dove disponibile, sia perché non tutti i network delle syndication trasmettevano in stereo, stato per stato americano poteva variare, e poi perché disponibile anche in base al televisore che riceveva il segnale. Sì, però diciamo che a Mediaset questo problema lo eliminava. Ma no, anche ma all'epoca trasmetteva solo mono e via. Ma guarda che Mediaset, fino a quando non hanno costretti, hanno trasmesso un 4 terzi quando ormai c'era il 16 noni, non so se ve lo ricordate. Nessuno li ha mai costretti, potrebbero farlo anche adesso. Ricordiamoci che con Falonieri era quello che pensava che internet dovesse morire, perché era Satana. Era un problema, un cane, era un problema per il loro business. Sì, ma è fuori, spero. Sì, sì, beh, il tuo sta qui che dorme. Forse un ventriloquo, un ventricane. E quello del filmato dell'altra volta, come si chiamava il cane ventriloquo? Shadow. Vai, Shadow. Io continuavo a vedermi i filmati di Shadow. Sì, ma comunque molto sono preparati. Sì, alcuni. Allora, sì. Ne ho visto uno che. Allora, il dubbio ce l'ho sempre avuto. Devo dire. O è ormai una macchietta conosciuta che quindi ci stanno al gioco. No, secondo me il dubbio ce l'ho sempre avuto. Però un video in particolare, cioè con quello che riprende, che sta troppo in mezzo alla situazione, cioè. Sì, diciamo, come fai a non notarlo? Vabbè. Comunque, tornando a Star Trek, a Staru Trekku. Picardu, sai che cos'è che mi manca di Star Trek? Sarebbe figo, dato che l'hanno fatto con Star Wars, un manga. Anzi, un anime. Guarda, anime non ce ne sono, ma manga, Star Trek manga c'era. Aspetta, io vado a cercare. C'era. Avete detto. voi parlate. Va bene, va bene. Io invece vorrei sapere se questi c'è ancora tempo, eh? Però se questi professionisti. Beh, sono le 22, non c'è tutto questo tempo. Beh, se questi no, cioè, non per noi, no, per la serie. In generale, per la serie c'è ancora tempo. Se questi professionisti che diceva Pizzi si ricordano pure che i cambianti, che adesso hanno tradotto un po' più. Cioè, possono prendere la forma anche di oggetti, non solo di esseri viventi. Qua per adesso è glissata completamente sta cosa come se niente fosse. Ma magari poi la recuperano. Non lo so. Vediamo, perché già il fatto che. Intanto c'è il sospetto che sia una nuova sottospecie. Innanzitutto è un'evoluzione, ok? Esatto. Poi anche, capito, ma le evoluzioni avvengono in decine e centinaia di generazioni. Questi si sono evoluti, che è fantascienza. In 10 giorni. Capito, ma se stiamo a mettere a fare. Però quello che dico io non è che se questi riescono a deludere i sensori, perché in realtà riescono ad arrivare a un livello di riproduzione anche degli organi del sangue, immagino che quando diventano una sedia di legno, diventano una sedia di legno. Ok, quindi oggettivamente il discorso non cambia a livello sensoriale. No, quindi aspetta, fermo. Sono comunque irritracciabili. Ma perché loro comunque dicono, ChatGPT è tornato. Non è questo il discorso. Loro il dicono discorso non è sangue, che non ma non c'è un DNA dentro. Sì, che cazzo, cioè, vuol non dire? L'hanno, cioè, non l'hanno data sta cosa, cioè non l'hanno proprio messa nella serie, il fatto che loro comunque possono mimetizzarsi in un oggetto e sfuggire alla ricerca. Invece questi vanno in giro, cioè, ma dove stai? Però cercano delle persone, non cercano degli oggetti. Questa è sta cosa strana. Comunque vedremo. Sì, non c'hanno DNA, basta che fai una ricerca di un essere vivente senza DNA, lo becchi subito, insomma, teoricamente. Però sempre perché il tricorder può fare di tutto tranne che le cose che servono. Secondo, esatto, all'occorrenza. Quando ti serve non c'è mai. No. Lo so, ma funziona sempre così. Vabbè. Perché il problema è che quando inserisci troppa scienza hai dei problemi nelle sceneggiature, quindi ti devi creare delle dimenticanze, per forza. Ma io voglio soltanto vedere come va a finire mostra tresca, perché c'è sta la cosa. Allora, confermo che esiste un manga di Star Trek che si chiama incredibilmente. Si chiama Star Trek The Manga. Chi l'avrebbe detto? Che originalità. Chissà se a fine stagione Picard torna con l'Aren, come cacchio si chiama, con McLaren. O con Ladi Vadis Rolaren è schioppata, è morta. Con la Romulana, che poi tra l'altro non parliamo di questo, perché questo sarà un tema dello speciale. Ma è una domanda. No, perché io me la sono preparata sta cosa. Non me prima ancora di sapere come andrà a finire, già te la sei preparata. Sì, perché in realtà c'è già non da ci rispondere. Cioè, infatti, la mia domanda è: chissà come va a finire, se torna con la Romulana. Okay. Ma se le bomba tutte! Esatto, se fa un terzetto, una cosa aperta. Porcone. Prendi la pasticchina che ti fa. Baciami in bocca. Yeah. Ma adesso Picard, lui ovviamente si fa, ma adesso Picard è sintetico, esatto. Si programma lì. Senti, ma sei programmato in tecniche multiple? No, ma non funziona così, ragazzi. Che poi è sintetico, è biologicamente sintetico. Lui è lui e basta, non è che si programma. Che cazzo dici? Sì, si programma. Certe cose si programmano. Io Puzzettino l'avevo lasciato per programmare. C'era anche Berlusconi. Che te pare che non lo fanno Puzzettino per programmare? C'è un pulsante vicino al tuo dito, presto tiralo, non far ruttare. Ma vabbè, comunque, secondo me il problema di questo telefilm è che esce una volta a settimana. Allora, Star Trek The Manga esiste, c'è anche uno Star Trek The Motion Comic. Che ho paura. The Motion Comic. Ah, è forse il fumetto del film. Del film, sì, probabilmente. Ma quello brutto di con Cristopino. Con Chris Pine, è il prequel, dovrebbe essere il prequel di lo Star Trek di J.J. Abrams, che è una vera merda, ragazzi. Ultimo ambientato sulla serie classica. Allora l'altra cosa, ma forse. Ma non è che il cartone, no. Quello lo scena. No, anch'io ho pensato. Ma forse il fumetto con quella grafica. Anch'io ho pensato che fosse la serie animata. La serie animala è della lentezza. Infatti già dalla musica, infatti siamo anche curiosi di capire che stai a guardare. Cioè fino adesso c'è solo l'astronave che cammina così. Costa poco. E le scritte che passano, vabbè. È tipo la sigla della serie originale, solo però che piano. Più lenta. Esatto, era l'Enterprise. Vabbè, succederà qua. No, aspetta, perché sono curioso. succedono cose sull'Enterprise. Come radiofonico, sì. Tutto questo. Senti. Cioè, dopo la faccio vedere, raga, perché praticamente è come se fosse un fotoromanzo, perché gli attori sono quelli originali della serie classica. Non so se sono disegnati o fotografati, ma penso siano tipo disegnati. E stanno tutti nelle loro pose. E si spostano tipo a livelli. Vabbè, magari è qualcosa degli anni 60. Sì, sì, a me se una cosa del genere l'avessero fatta in Italia, non me la sarei guardata, per esempio. Cioè, nel senso. Torniamo alla nostra base. La nostra base musicale. Hai detto bene, torniamo alla base. Torniamo alla base, ok. Allora, sai che ti dico? Che ti dico? Dillo, dillo. Lo sto per dire? Vai, diglielo. Cari ragazzi, questa serata spero che l'abbiate passata piacevolmente in nostra compagnia, dove in OGM Social Media Edition abbiamo parlato di tutto tranne che di qualcosa di interessante. Ma d'altronde fare contenuti interessanti, fare contenuti interessanti è sempre difficile e non è il nostro compito, e soprattutto non, esatto, non... Allora facciamo così: volete contenuti interessanti, scrivete, fate una letta, cazzo di dotazione a Runtime Radio, esatto, diretta a runtimeradio@gmail.com, sul nostro Patreon, sul nostro PayPal, metteteci i soldi, quelle palanche, allora, e noi facciamo. PayPal è runtimeradio@gmail.com, diciamolo, sì, perché sì, sì, sì. No, metteteci le palanche serie, allora ne possiamo parlare. Le palanche, esatto. E se fate una donazione superiore ai 20 euro, attenzione, attenzione. Stai sbilanciati. Avete addirittura, guardate ragazzi, vincete l'opportunità di scriverci una scaletta per la prossima puntata. Quindi insomma, incredibile, guardate. Io non penso che nessuno possa essere più generoso di quanto sono stato generoso io. Per il resto saluto Marco Gualdi, una volta detto il distruggitore. Ma ora non più, perché non mi sono rotto il cazzo di distruggere le cose, però con 40 euro possiamo farci la scaletta, ma anche proprio una trasmissione. Esatto. Svendiamo per poco. Guarda, per 40 euro ci potete scrivere 5 puntate. Esatto. Potete scrivere voi, eh? Il tema, 5 puntate. No, che tema? Non scrivo proprio le puntate. Ah, beh, sì, va bene. È va quello bene. Che ti sto a dire. Perfetto, vedi che non funziona, è che il senso. Funziona. È un po' come la stazionata HBO. Ringraziamo e salutiamo Walter, anche detto Sbano. E allora io mi voglio rovinare per 50 euro di donazione. Attenzione. Potete venire in studio, in diretta, ospiti in una trasmissione a vostra scelta, a spese vostre. A spese vostre, chiaramente. Beh, ma certo. Con fondo fuso alto un centimetro. Esatto. E bicicletta col cambio Shimano. Esatto. E state al mixer anche, così date pure una a mano. Cazzo de cane. Infatti, cioè, una volta che venite, rendete le utili. Bussate coi piedi. Assolutamente. Vi ricordo che domani sera ancora, quindi martedì, mercoledì, giovedì alle 20, Walter Sbano torna con le orazioni della sera. No, fermo. E se poi a me non mannava? Vabbè, lo dici, domani lo dici, va a me va. Io faccio sempre così. Vabbè. Non è che, però poi questa settimana finalmente ufficiale ci sarà, anche quando eravamo futuro, ma mercoledì, non giovedì, perché giovedì ci sarà uno speciale di Leo Vargion che intervisterà Primordial Woods, che sapete, insomma, era il tipo che ha fatto praticamente la canzone della scorsa settimana. Quindi attenzione alle sfumature semantiche, che sono sempre importanti. Giovedì sera, quando eravamo passato, esatto. Perché in realtà sarà stato mercoledì. È passato, esatto. Sarà stato, è bellissimo, è una cosa che fa parte di noi stessi. E poi venerdì torno io con una puntata molto distopica di come si chiama? Il Grande Reset. Qual è quella di venerdì? Quella sulle distopie. Quelle sulle distopie, sì. Le migliori 5 distopie. Le migliori 5 distopie. Distopie che sono una sorta di tipo, tu sai, le miopie, le presbiterie, le ricevitorie e le frigitorie. Ciao. E vi lascio con il brano della settimana di Marco Bianchi Quartet. Ciao.